Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 16 luglio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori, sempre su Liberi Dentro ed Eduradio e TV, il nostro programma che fa da ponte, come ormai sapete benissimo, tra il carcere e la città. Io sono sempre Caterina alla conduzione di questo programma e qui con me c'è Antonella Cortese, buongiorno. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e quasi buon fine settimana. E cosa devono fare i nostri, cosa potrebbero fare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici? Potrebbero andare sul sito di ideaginger.it, noi vi siamo sempre veramente molto molto grati, siete collaborativi, siete veramente carissimi, si vede che gli amici si trovano nel momento in cui li cerchi, e sostenerci, magari aiutarci anche a portare le nostre voci nelle carceri, nelle camere detentive, parlare alla città anche nel mese di settembre. Trovate il nostro progetto che si chiama Eduradio TV, parla appunto su Ginger, e continuate così, e noi il nostro grazie è sempre a ognuno di voi, e mi raccomando, guardate le ricompense che sono meravigliose. Ma passiamo alle notizie. Lo leggo da Madonie Press: spazio libero, la nuova biblioteca tra le mura del carcere di Termini Imerese. Perché lo scorso 25 giugno è stata inaugurata Spazio Libero, questa biblioteca tra le mura del carcere di Termini Imerese. Sarà un luogo di incontro, è bellissima questa cosa dopo i mesi della pandemia, un luogo di incontro che diviene contesto di scambio e di confronto, un polo intorno al quale unire tutte le attività culturali e interculturali. Ha detto Carmen Rosselli, la direttrice della Casa Circondariale, che oggi più di prima la nuova biblioteca diviene simbolo di ripartenza dopo le dure restrizioni dovute all'emergenza sanitaria in corso. E Caterina, è molto carino anche proprio come hanno scritto spazio libero, perché hanno messo tra parentesi la E e quindi potrebbe essere anche spazio libero. Comunque c'è anche un certo impegno di genere, no, dietro a tutta questa faccenda. È vero, perché insieme alla direttrice della casa circondariale e alla preside della scuola, una squadra tutta al femminile ha lavorato con grande tenacia e determinazione affinché la cultura potesse essere divulgata nel migliore dei modi. E quindi a partire dalla comandante di reparto che dirige i servizi di sicurezza del carcere, per finire alle insegnanti, sappiamo ormai sono quasi tutte donne le insegnanti all'interno del carcere, e ai responsabili della biblioteca, anche esse donne. Una sensibilità dunque, quella femminile, che ha permesso di realizzare un progetto che all'inizio presentava diverse difficoltà. È uno spazio realizzato, lo ricordo, grazie all'intesa tra il MIUR, attraverso il Centro Provinciale Istruzione Adulti, il CPA Palermo 2, operante all'interno della Casa Circondariale, e il Ministero della Giustizia, ed è il frutto di un lungo lavoro di ristrutturazione grazie all'impegno e alla dedizione dei detenuti stessi. Caterina, a conclusione dei lavori, che saranno ormai arrivati al termine, quale sarà la vera sfida, quella più importante, direi? Ma intanto volevo ricordare che un particolare ringraziamento è andato anche ad Antonio Sellerio, che ha impreziosito questa biblioteca donando 300 libri della collana Memoria, e anche alle edizioni Arianna con un centinaio di libri. E poi la sfida sarà quella di accompagnare i detenuti alla pratica della lettura come occasione di rigenerazione. Quindi verranno attivati laboratori che hanno già portato risultati molto incoraggianti negli anni scorsi, quindi questo a giudicare dalle continue richieste di prestito librario, e quindi niente, si parte a leggere e a incontrarsi e a discutere sui libri letti. Bene, bella iniziativa, bellissima. E la canzone che lanci oggi? Allora, adesso abbiamo Free Bird, quindi una delle canzoni rock più famose di sempre, anche un inno alla libertà, non tanto nel testo, ma nell'attitudine, nell'approccio rock che è molto vitale, che questo gruppo dà all'interpretazione, ed è uno di quei casi in cui più che le parole in sé conta come vengono dette, suonate e cantate, e sono parole che fanno veramente di libertà. È molto famoso l'assolo finale della canzone con la chitarra, vediamo se lo riconoscete. Bentornati sempre su Liberi Dentro Radio TV. Avete appena ascoltato la nostra canzone tra me e Antonella che fa da stacco fra le notizie. E come sapete, il venerdì è il giorno degli animali. Noi abbiamo lo zoo di Liberi Dentro Radio. Questa volta un animale bianco e nero. Sì, allora è il nostro giorno animalesco, potremmo dire. Sì, è un animale bianco e nero, Caterina. Non è colori ed è la zebra, ovviamente, l'avete indovinato tutti, perché è l'animale bianco e nero per antonomasia. E intanto diciamo subito che appartiene all'ordine dei perissodattili. Si conoscono tre specie al momento, la zebra comune, diffusa ampiamente nella savana con svariate razze, la zebra di montagna, un po' più rara della precedente, e poi la zebra di Grevi, distinta per la sua sagoma più elegante e slanciata, che è molto più simile al cavallo. In effetti le zebre sono un po' a metà strada fisicamente tra il cavallo e l'asino, e si riconoscono giustamente per le strisce, per il manto bianco e nero. Le zebre vivono prevalentemente in zone erbose, le savane alberate oppure anche nei boschi aperti e in zone ricche di acqua come rinoceronte, per esempio, di cui avevamo tra l'altro già parlato. In caso di mancanza di acqua è un animale che migra verso pascoli più verdi, compiendo anche centinaia di migliaia di chilometri. No, forse migliaia proprio no, diciamo centinaia di chilometri, non camminano poi tanto come ho detto, però spesso si accompagnano a gnu e gazzelle. Sono distribuite in Africa orientale e meridionale, Africa del Sud, nelle zone semiaride di Etiopia, Somalia e Kenya settentrionale. Però Caterina, la zebra è un animale che si mangia, cioè l'uomo lo caccia sia per la pelliccia che per la sua carne. Questi fattori hanno contribuito, come sempre, alla diminuzione degli esemplari, portando alcune sottospecie di zebra sull'orlo dell'estinzione. Ma queste strisce che contraddistinguono la zebra a cosa servono? Guarda, questa è la cosa che mi ha incuriosito di più, perché noi avremmo subito detto servirà per occultarle all'occhio del predatore. Non è soltanto questa la teoria che va per la maggiore. Allora, prima di tutto, tutte le altre livree, cioè proprio il colore del manto, paragonabili, quindi dalle linee verticali delle tigre alle chiazze del leopardo, fino al raffinato disegno geometrico della giraffa reticolata, sono utili a nascondere l'animale tra la vegetazione fitta e di solito hanno toni bruni, gialli, insomma toni che si nascondano bene, che si confondano nel territorio. Per molto tempo si è quindi creduto che le linee regolari delle zebre rendessero la sagoma dell'animale più difficile da riconoscere nell'elba alta. Però c'è anche da dire che questi erbivori frequentano spazi aperti, brucano l'erba a livello del terreno, dove comunque una colorazione omogenea forse sarebbe stata più indicata. E la regolarità e l'abbondanza delle strisce inoltre non si addice a una colorazione disruptiva, cioè che spezza la sagoma dell'animale in due, ma è invece affine alle livree di avvertimento di altri animali, di pesci, spesso però dotati di sistemi di difesa diverso, tipo pungiglioni o carni tossiche. Le zebre però sono ottime da mangiare e non hanno nessun particolare sistema offensivo, se non le corna, anzi neanche le corna direi. La loro migliore difesa infatti, cara Caterina, qual è? La fuga. Possono solo scappare, solo se sono messe alle strette possono calciare e mordere, però devono essere molto vicine all'aggressore, diciamo così. Però tu in partenza hai detto che eri curiosa di sapere a cosa servissero le strisce e ancora non ce l'hai detto, quindi ti riporto al punto. È vero, mi sono dilungata su altro, comunque ci sono un paio di ipotesi di cui vi parlerò. Allora, le strisce come chiave di un sistema di regolazione della temperatura. Le bande chiaroscure, molto ravvicinate, darebbero vita a microscopiche correnti d'aria sulla pelle dell'animale, cioè l'aria sale sul nero più caldo e si abbassa sul bianco più fresco, contribuendo a raffreddare gli animali nelle savane assolate. Ma in realtà, Caterina, la prova del 9, realizzata con appositi modelli, non ha dato proprio un riscontro totale. Però c'è un'altra ipotesi, portata avanti dall'Università della California e dall'Università svedese di Lund, che ci racconta che le strisce avrebbero soprattutto un'altra funzione, rendono questi erbivori meno interessanti agli occhi dei tafani, in particolare della famosa mosca tsetse. Sappiamo che questi insetti sono in grado di vedere la luce polarizzata riflessa e sembra che l'alternarsi delle strisce bianche e nere disturbi il segnale visivo, quindi renda meno interessante e meno visibile la zebra. Forse questa è una spiegazione molto più plausibile. Grazie Antonella e stacchetto virtuoso che serve sempre per raccontarvi in un minuto le voci del nostro crowdfunding e poi quale musica? Ci lasciamo per la settimana con Rokia Traoré, che abbiamo ascoltato un po' per tutti questi 5 giorni, con la canzone Chua. Ascoltatela. Liberi Dentro e Duradio TV, un ponte tra carcere e città. Una diversa narrazione dell'universo carcere. In linea con il mandato costituzionale, le pene devono tendere alla rieducazione delle persone ristrette. L'estate in carcere è un tempo infinito di solitudine, abbandono e caldo. Dobbiamo veramente fermarci qua? Aiutateci a continuare a portare le nostre voci nelle carceri dell'Emilia-Romagna. Cantieri Meticci per Eduradio ha guidato dei laboratori di narrazione, di scambio di storie e di canto. Noi di AVOC abbiamo continuato a distanza i laboratori di scrittura che conducevamo in presenza in carcere. FOMA, il centro di formazione professionale, che insieme ai suoi allievi ha curato per Eduradio la rubrica di Chef al fornelletto. Sostieni Eduradio e TV. Aiutaci a mantenere attivo questo ponte fra carcere e città. Per donare, collegati alla piattaforma www.ideaginger.it e cerca il progetto Eduradio e TV. Ritrovati, siamo di nuovo con Laura Astarita. Buongiorno Laura. Buongiorno. Sempre qui su Liberi Dentro e Duradio TV, come sapete, la seconda parte è sempre dedicata all'ospite. E Laura, tu sei appunto operatrice CEFAL Emilia Romagna, questa organizzazione che nasce nel 93 con l'intento di coniugare l'esperienza della formazione nella consulenza e nell'orientamento al lavoro al fine di valorizzare le persone. Abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di tirocini, oggi parliamo di corsi di formazione, che come CEFAL fate per l'appunto. E che periodo è quello della formazione? Sì, allora la formazione, un corso di formazione è un momento in cui si frequenta proprio un'aula come se fosse un'aula scolastica, anche se non proprio, mi spiego. I corsi di formazione possono essere più o meno lunghi e possono, a seconda della durata, sia portare a una qualifica lavorativa, sia a comunque un attestato di frequenza, se sono più brevi e non portano una qualifica, che attestano appunto che hai frequentato quel corso. Sono tutti diversi e possono essere sia professionalizzanti, cioè attenere alla professione che andrai a fare, quindi un corso di ristorazione, un corso di manutenzione del verde o di pulizie, sia possono essere corsi sulle competenze, cosiddette competenze trasversali per il lavoro, quindi diciamo dei corsi più generici. Noi, per quanto riguarda l'esecuzione penale esterna, quasi tutti i percorsi di tirocinio, ma non tutti, sono legati all'obbligo di una formazione prima del percorso di tirocinio, che è un momento comunque molto molto importante per quanto riguarda il percorso tutto. Mi chiedevo se ci sono delle difficoltà quando si affronta il periodo della formazione e anche chi può accedervi. Sì, chiaramente ci sono delle difficoltà, sia da tutti i punti di vista, dipende dalle persone ovviamente, chiaramente, però le difficoltà possono essere logistiche, proprio dell'arrivare al corso, possono essere economiche, del sostenere il costo del biglietto per arrivare a questo corso, perché i progetti europei quasi sempre non prevedono il sostegno economico, ma grazie al lavoro sul tavolo carcere di cui abbiamo già parlato congiunto, siamo negli anni riusciti a risolvere anche un po' questo problema economico. Altre difficoltà possono essere quelle legate al ricominciare, no? A vivere in un contesto, inserirsi in un contesto dove ci sono degli obblighi da rispettare, degli orari, un gruppo classe, gli allievi con cui condividi lo spazio, che insomma tra adulti e chiunque di noi lo sa bene, non è sempre semplice. Può accedere quindi di conseguenza chi dall'assistente sociale è ritenuto pronto per condividere questo spazio e affrontare queste piccole difficoltà logistiche e anche diciamo di tenuta del corso, e non sono tutte le persone, ma solo quelli che vengono scelti, diciamo, dalle assistenze sociali. Quindi potremmo dire difficoltà piccole o meno grandi che siano, ma anche prospettive per il futuro. Parliamo di questo dopo la musica che lanci tu. Fabrizio De André, un medico. Guarire i ciliegi quando rossi di frutti li credevo feriti. La salute per me li aveva lasciati, coi fiori di neve che avevan perduti. Un sogno fu un sogno, ma non durò poco, per questo giurai che avrei fatto il dottore, e non per un dio, ma nemmeno per gioco, perché i ciliegi tornassero in fiore, perché i ciliegi tornassero in fiore. Rieccoci sulle note di Fabrizio De André. Stiamo parlando con Laura Starita di Cefal Emilia Romagna a proposito dei corsi di formazione che Cefal offre ai propri destinatari. Parlavamo delle prospettive per il futuro. Il corso di formazione può aiutare, Laura, alla riuscita di un percorso nell'inserimento lavorativo? Assolutamente sì. Infatti vorrei dire a tutti quelli che pensano, la maggior parte delle persone pensa che il corso di formazione sia una perdita di tempo, perché comprensibilmente le persone che arrivano da noi vorrebbero iniziare subito un tirocinio per guadagnare qualcosa e per inserirsi nel lavoro. Ma il corso di formazione è un arricchimento. Sembra una perdita di tempo, allunga un po' il tempo, ma è un arricchimento da tutti i punti di vista, anche umano, perché molto spesso si creano delle relazioni tra le persone che frequentano il corso molto stimolanti, molto belle. Lo vediamo spesso, lo posso dire, oltre che con i docenti naturalmente. Chiaramente è un arricchimento anche dal punto di vista professionale, perché inevitabilmente porti a casa delle conoscenze, delle competenze che altrimenti non avresti, e che sicuramente contribuiscono alla riuscita del percorso stesso di tirocinio, che non è scontato, perché il tirocinio non è semplice da affrontare. Il momento del corso rappresenta quasi un ulteriore momento di graduale reinserimento, in cui ti inserisci in un contesto, ti adegui a quel contesto e ti prepari proprio per il tirocinio, che dopo la formazione quasi sicuramente andrà meglio. E secondo te, Laura, che cosa aggiungerebbe in più a un corso di formazione per fare in modo che, non so, magari la durata oppure la varietà delle persone professionali coinvolte per la formazione, per aiutare a renderli ancora più performanti per chi vi accede. È molto importante l'impegno da parte nostra. Noi cerchiamo sempre di configurare il corso, di organizzare il corso adattandolo alle esigenze delle persone. Quindi siamo molto flessibili nella preparazione, nel non dare per scontato che sia interessante. Insomma, lo rendiamo meno tradizionale possibile, meno lezioni frontali possibili. Le persone, dal loro punto di vista, devono fare, le persone, gli allievi, diciamo, un passo in più e investire in quel momento in più, cercare di portare a casa, di portare dentro di sé quanto più possibile da quel momento, che non deve andare sprecato. Grazie Laura, ricordiamo la pagina web per accedere ai corsi, per avere qualche informazione. Cefal.it, però possono chiamare sicuramente al centralino che gli daremo tutte le informazioni possibili. Grazie e ci rivediamo la prossima volta per parlare di giovani adulti, per capire chi sono e che cosa fanno nella nostra città di Bologna. Alla prossima e un brano, l'ultimo lo lanci sempre tu. Baustelle, gli spietati. Per noi si conclude qui con Libri dentro Radio TV. Avete appena ascoltato Laura Starita di Cefal e tra poco seguiranno le nostre rubriche, tra poco per oggi e anche per tutto il fine settimana. Vediamo quali sono. Oggi è venerdì, quindi abbiamo l'Islam, religione e civiltà, poi a seguire percorsi di pace sulla meteorologia. Domani, sabato, abbiamo il rinnovamento nello spirito, a seguire la rubrica Parliamo di buddismo e al termine il teatro del Pratello. Ma anche domenica le nostre puntate non vi abbandonano, ci sarà il CPA di Bologna con School on Air e a seguire il FOMAL con le ricette di cucina. Scriveteci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 240 136 Bologna. Grazie a Enea Flacco per il montaggio di queste puntate e a Antonella Cortese qui con me in redazione. Ovviamente il grazie più grande va a voi ascoltatori e anche sostenitori del nostro progetto sul crowdfunding. Lo trovate su ideaginger.it cercando Eduradio e TV e ci potete dare una mano così a continuare a portare le nostre voci, il nostro programma all'interno delle carceri anche nel mese di agosto, il mese più duro. Buona estate a tutti e alla prossima. Liberi dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.